Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Lo scorso anno è stato tra i vincitori del premio Gaetano Marzotto, uno dei più importanti dedicati alle imprese innovative. Si chiama APX e i suoi inventori lo definiscono il primo motofonino, un veicolo elettrico a tre ruote, diciamo uno scooter cabinato dotato di un'interfaccia wireless che integra il sistema di bordo con smartphone e tablet. Ci facciamo spiegare tutto dall'ideatore e progettista di APX, Marco Broggi. Buonasera Broggi. Buonasera, dottor Melis. Allora, intanto ci descriva questo oggetto, ci aiuti a capire come è fatto. Noi abbiamo cercato di mettere un'auto all'interno di una moto. Per poter rendere il veicolo moto utilizzabile da una larga fascia di pubblico che non utilizza tradizionalmente la moto. E quindi sostanzialmente abbiamo costruito un veicolo che ha tre ruote. Sì. Sulle due ruote anteriori c'è un sistema che in fase di rallentamento stabilizza il veicolo a terra, quindi il veicolo non ha necessità di essere sostenuto. Non bisogna mettere giù il piede, insomma, no? Esatto, non bisogna mettere i piedi in terra, sì. Anche questo, anche quando ci si ferma per parcheggiare, il veicolo si mantiene da solo in piedi. Pur essendo a tre ruote di quel tipo di veicolo che però si inclina quando si fanno le curve, no? Perché altrimenti uno direbbe, vabbè, ma su tre ruote che difficoltà c'è a stare dritti? Una moto, avendo doppie ruote anteriori, ha una serie di vantaggi, soprattutto quando si usano in certe città, come può essere Milano, dove ci sono i binari a terra tipo filobus, certo, eccetera, ci danno maggior sicurezza, e quelle a volte sono un vero problema per i motociclisti. Certo. E poi è coperto, no? Importante questo. Cioè, sì, è coperto, si guida senza casco, si può per questo indossare un abbigliamento da autovettura, quindi non serve essere abbigliati per da moto, insomma, perché moto, per esempio in città questo limita molto gli utenti, doversi mettere lo scafandro fa sì che poi molte persone preferiscano un altro mezzo perché magari devono andare in giacca e cravatta al lavoro, no? Banalmente. Sì. Ecco, e poi si guida con una cloche, tra l'altro, altra cosa mi sembra. Sì, si guida stando comodamente seduti e quindi ha un po' un assetto di auto sportiva. E si guida stando come si fa su un'auto, ha una cloche, quindi non ha un manubrio tradizionale, e quindi anche questo è un sistema diverso e ci consente di guidarlo in maniera più tranquilla, ecco, diciamo. Questo è un aspetto che abbiamo dedicato molta attenzione. Ecco, senta, velocemente, quali sono autonomia, costi di ricarica, costi anche di gestione, diciamo, di questo mezzo? L'autonomia sono in uso normale sui 150 km. Dunque, la ricarica dura mediamente dalle 3 alle 3 ore e mezzo. Ok, a secondo del tipo di ricarica, le certo. Le prestazioni sono molto simili a uno scooter 250. Quindi, in tutto e per tutto, è molto vicino a uno scooter normale. Ok, come prestazioni, diciamo, motoristiche, accelerazione e quant'altro. Consumi, però, spero un po' meno di uno scooter 250. Dunque, una ricarica costa all'incirca 70 centesimi, okay. Quindi ecco, di lì si fa un rapido conto, 100 km, 150 e naturalmente direi che è molto poco. Ecco, senta, perché questa enfasi sull'integrazione dei sistemi di bordo con smartphone e tablet? Che cosa porta, cosa aggiunge? Dunque, noi ci siamo resi conto innanzitutto che le potenzialità di tali sistemi stanno crescendo in maniera importante e fanno sempre più parte delle nostre abitudini. Poi, soprattutto relativamente ai sistemi di navigazione, il fatto che questo veicolo, guidandolo senza casco, possiamo avere anche un viva voce, quindi ci disimpegna dall'azione di dover rispondere al telefono, cosa che non è molto molto impegnativa, ecco, di avere delle, sì, oltre che vietata spesso. Il fatto poi di avere una serie di servizi, come esempio, quali sono le stazioni di ricarica in quella città? Molti veicoli elettrici che vengono progettati oggi, soprattutto dalle grandi case automobilistiche, in realtà poi sono dei begli esercizi di design che rimangono sulla carta. Voi invece siete una piccola realtà, avete bisogno di produrre e quindi per andare in produzione avete scelto un approccio industriale che non è molto comune nel mondo automotive. Ci spiega? Dunque, noi ci siamo preoccupati innanzitutto per la fattibilità. Ecco, quindi affrontando questo progetto da un punto di vista di fattibilità l'abbiamo dovuto semplificare. Quindi di fatto abbiamo utilizzato materiali in lega leggera, questo è un fattore importante. Però soprattutto l'abbiamo fatto semplificandola in massimo. Difatti, paradossalmente si può dire che il veicolo è fatto di tre pezzi, quindi sono due rame rifiegate a C, un tubolare all'interno del quale c'è alloggiato il motore principale. Quindi questo è fatto perché possa essere prodotto in piccola e media serie, e questo qui rende realizzabile questo veicolo. E quindi insomma lo produrremo in Italia? Sì, lo produrremo in Italia, sì. Grazie, allora, grazie Marco Brogi. Grazie a lei, dottor Merz. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.